l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale dedicato alla cultura europea, un programma in collaborazione con Euronet, un network paneuropeo che cerca così di trattare temi comuni con approcci diversi, con lingue diverse. Euronet.eu è l'indirizzo del portale, tanti dossier, tante inchieste, tanti approfondimenti. Ci potete seguire anche su Facebook, nelle nostre pagine ufficiali, facebook.com/l'altra Europa, oppure su Twitter con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare, @ Federico Taddia. Ogni sabato un viaggio, la prima tappa di oggi alla Francia. Crédibilité que même ses adversaires lui reconnaissent et que pour moi c'est le meilleur des candidats. Je lui ai même serré la main, je ne vais pas endormir de la nuit et c'est encore meilleur qu'à Villepinte et on va se battre encore un mois et demi pour qu'il... Il clima è quello preelettorale, la corsa all'Eliseo è attiva, è accesa, è apertissima e quelli che state ascoltando sono alcuni dei giovani sostenitori di Sarkozy. E Sarkozy ha avuto la possibilità di incontrarlo, un suo vecchio conoscente, perché già in passato hanno avuto a che fare. Lui si chiama Philippe Ridé, è il corrispondente di Le Monde a Roma. Nel 2007 ha seguito la campagna di Sarkozy per le presidenziali ed è appena stato con lui qualche giorno, appunto per toccare il polso della situazione in Francia, per capire come sta andando questa campagna elettorale. Ciao Philippe, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Buongiorno. Tra l'altro, insomma, come sempre, è vero, c'è stata una sorta di confidenza di Sarkozy che ti ha fatto ed è finita sui giornali questa frase. È tutto vero quello che è stato riportato dalla stampa? Sì, sì, è vero. Di solito scrivo il vero. Lui mi ha fatto questa confidenza dicendomi io sto per vincere perché il mio avversario fa una campagna sbagliata e soprattutto mi ha detto il è nul, che vuol dire un cretino, diciamo, che è una parola un po' violente, un po' pesante, che è questa parola ha un po' animato il dibattito della settimana scorsa, ma soprattutto io ho visto un uomo che sembra felice di fare campagna e che è sicuro della sua vittoria. Io non sono sicuro molto di meno di lui, ma diciamo che lui si presenta in questa competizione, perché è anche una competizione anche del punto di vista sportivo, in piena forma e con una fiducia in sé che non sembra finta. Ecco, non sembra finta perché comunque i sondaggi perlomeno raccontano un po' il contrario, o comunque non fotografano una vittoria sicura o netta, no. Anzi, tutt'altro. Tutt'altro, diciamo che sembra abbastanza sicuro adesso che lui possa vincere il primo turno, arrivare in testa al primo turno, ma il suo problema è che lui ha fatto in modo di fare un po' il vuoto intorno a lui e non ci sono altri candidati di destra, tranne Marine Le Pen, che è dell'estrema destra, e un piccolo candidato della destra che si chiama Dupont-Aignan, che non pesa niente, due intorno a 1,5 o 2%. Quindi il suo problema al secondo turno sarà di trovare dei voti, quindi i suoi voti sono soprattutto nell'estrema destra, perché certo. È qui che c'è il più grande serbatoio di voti. Mm-hmm. Spiega perché lui fa questa campagna che è molto a destra. Certo, la strage di Tolosa secondo te andrà a influire su queste elezioni? Beh, tutti l'hanno pensato e poi si è visto che questa strage, che comunque è un evento grandiosissimo, un po' l'11 settembre dei francesi, non ha cambiato granché, come se questo evento avesse stato digerito quasi immediatamente, mentre 4 giorni tutto il dibattito ha girato intorno a questa strage e poi al quinto giorno tutto è ripreso come se nulla fosse stato. È un po' strano, io non ho la spiegazione, ma sembra che già la morte dell'assassino ha messo un po' un punto finale all'emozione, e poi c'è anche un dibattito sui servizi che non è nato, diciamo. C'è stato un tentativo di mettere i servizi nel cuore del dibattito, ma penso che non sia neanche l'interesse di Hollande, che nel caso che lui diventasse il capo dello Stato avrai a che fare con questi servizi. Quindi sembra che questo dibattito è stato evitato, diciamo. Certo. Quindi un Sarkozy in forma, un Sarkozy con cui hai chiacchierato e con cui hai passato qualche giorno, qualche ora? Come... Sì, ma diciamo che mi sono messo nella sua ruota per 10 giorni, ho seguito tutti i suoi appuntamenti pubblici, non quelli privati, ho girato un po' dappertutto in Francia con lui, e poi ho avuto questa fortuna, anche perché l'ho chiesto, non è un regalo che mi ha fatto personalmente, di tornare in aereo con lui da Nizza a Parigi. Quindi abbiamo potuto discutere per un'ora e abbiamo parlato un po' di politico, ma soprattutto mi ha parlato di lui. Questo è un punto fisso di Sarkozy, che è uno che ama parlare di lui e che mi ha fatto un po' una lezione privata, diciamo, su che cosa lui è divenuto. Sarkozy è un uomo strano, ha 57 anni, considera che lui ne ha solo 22 o 25, si sente molto giovane perché ha cambiato moglie, ha avuto una figlia, e poi è cominciato di cambiare di pelle, diciamo, che Sarkozy, che passava per un caffone un po', un po' arrogante, caffone un po' francese, caffone, sì, certo. Diciamo, interessato soprattutto da canzoni leggere, da calcio, eccetera, eccetera. Si è messo a leggere i grandi classici francesi, tipo Stendhal, e anche stranieri. Quindi in quel momento mi ha detto di essere nel suo periodo Stefan Zweig, quindi sta leggendo, sta recuperando, insomma, sta recuperando. fa delle letture, che sono quelli che io ho fatto quando sono adolescente, diciamo, a 20 anni, che si scoprì Stendhal o che si scoprì, e lui ha ancora questa passione recente per il cinema italiano, ma il cinema italiano di 50 anni fa. Io sono film che ho visto nel mio cineclub di provincia 40 anni fa, ma quindi non è, diciamo, che anche oltre alla corsa all'Eliseo ha anche una corsa, diciamo, una formazione un po' più contemporanea. Comunque è simpatico, racconta barzellette? Barzellette no, Sarkozy non è uno che si interessa, non è come Berlusconi, no, che fa delle barzellette, no, soprattutto si interessa molto alla vita privata degli altri, diciamo, dei giornalisti, soprattutto dei giornalisti ragazze, che quindi fa delle domande un po' strane, questa è sempre con il suo marito, sono divorziati, ma perché sono divorziati? E lui che se n'è andato, lei fa delle, non so perché le fa, perché... Fa del contro-gossip, diciamo, ecco. Sì, non è... Diciamo che non è un Berlusconi, No. È uno che ci fa delle... che ti fa ridere, ma comunque è divertente, come sempre, di passare un'ora con il Presidente della Repubblica parlando di altro. Diciamo che si avvicina un po' di più del personaggio, perché lui comunque è un personaggio. Io ho scritto che aveva dato un po' di talento alla stampa, perché è rarissimo che la stampa si deve confrontare con un personaggio pubblico che ha anche questa storia che è un po' come un pintore, come se io fosse un pittore, ma modestamente. Devi diciamo, tratteggiare. Il modello è interessante, diciamo. Philippe, grazie davvero. Philippe Ridé, corrispondente delle Monde a Roma. Ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa per seguire queste importanti elezioni francesi. Ciao, buon sabato, grazie. Ciao. Ancora qui con l'Altra Europa. Come sapete, ogni settimana Euronet sceglie sceglie un tema e cerchiamo così ogni radio di portare il proprio contributo. È un tema curioso quello scelto di questa settimana, perché si parla di primavera, non tanto la primavera araba, no, si associa ormai giovani primavera e tutte quelle che sono state le rivolte per i cambiamenti nei paesi nord africani prevalentemente. Si vuole parlare anche di primavera europea, di una sorta di risveglio, di una sorta di cambiamento e di una sorta di fervore che sta accompagnando di fatto una nuova generazione, i giovani che l'Europa se la sono trovata, l'Europa l'hanno conosciuta, l'Europa se la possono viaggiare low cost, l'Europa la scoprono attraverso l'Erasmus, dove non sono più occasioni particolari, occasioni speciali, ma per fortuna scoprire l'Europa in questo modo diventa una sorta di consuetudine. E per parlare di questa primavera abbiamo invitato una persona, lui è il presidente dell'associazione Scambi Europei, che con il suo portale cerca proprio di dar voce, cerca proprio di trovare quelle che sono occasioni concrete per favorire la mobilità giovanile. Scambieuropei.com è il portale, con noi il suo ideatore, il presidente dell'associazione Scambi Europei, Stefano Campanari. Ciao Stefano. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Allora, dacci un'idea concreta, bella, viva della tua iniziativa. Perché nasce questo portale e cosa vuoi raccontare? Sì, beh, il portale, come tu insomma dicevi, nasce proprio per dare maggiore visibilità a quelle che sono le opportunità di mobilità europea che sono presenti in Italia, insomma perlomeno per i giovani italiani, e che a volte hanno forse poca visibilità. Ecco, proprio per questo nasce un portale che cerca insomma di raggruppare tutte quelle che sono queste opportunità che esistono ma che spesso restano un po' nascoste. Noi ci occupiamo, ecco, tendenzialmente di progetti finanziati dall'Unione Europea, quindi scambi interculturali, servizio volontario europeo, i progetti Leonardo, eccetera, ma facciamo anche informazione su quelle che sono le opportunità di stage, di lavoro, che proprio come dicevi tu, insomma, in questa primavera, sia appunto meteorologica che in qualche modo culturale, sono sempre maggiori. Ad esempio i lavori stagionali in questo periodo, raccolta frutta all'estero, piuttosto che animazioni in villaggi turistici, insomma le richieste delle aziende in realtà ci sono, semplicemente vanno, ecco, gli va data insomma più visibilità, ecco. Mm-hmm. Ecco, quindi questa primavera culturale tu comunque la vedi, la percepisci, non è solo una leggenda giornalistica? No, assolutamente no. Io vedo la vedo tutti i giorni dal numero di viste insomma che riceviamo dagli utenti, dal numero di candidature che ci arrivano per i progetti. I fattori sono molteplici. Un po' ecco, come dicevi tu, questa nuova generazione low cost, quindi la possibilità di spostarsi con pochi mezzi, un po' le poche possibilità che ci sono purtroppo in Italia anche dal punto di vista lavorativo, se vogliamo, e un po' per il fatto che oggi comunque diciamo che la conoscenza di almeno un'altra lingua e comunque l'appartenenza all'Unione Europea ci rende parte di un disegno più ampio di quello nazionale, per cui un'esperienza formativa all'estero risulta diciamo essenziale in termini di realizzazione tanto personale come professionale. E Stefano, i giovani insomma vogliono provare, sia poi per una settimana, un mese, per tutta la vita, poi questo sta insomma a loro scegliere. Stefano, hai selezionato un paio di notizie proprio per avere anche proprio un esempio concreto delle cose che si possono trovare sul tuo sito. Sì, certo. Noi come associazione in questo momento stiamo gestendo diversi progetti attivi, ovviamente i più immediati sono, abbiamo uno scambio molto interessante in Turchia, a Mersin, lungo la costa, dal 18 al 25 aprile, quindi che partirà a brevissimo, stiamo ancora cercando gli ultimi due partecipanti. Si parlerà di ambiente, di riscaldamento globale, di cambiamento climatico in generale, e con altri 5 partner europei, quindi ragazzi provenienti comunque da tutta Europa. Un altro scambio interculturale sempre in Turchia, in questo caso è un bilaterale, quindi solo Italia e Turchia, sull'arte, le sue diverse forme di espressione, e poi vari progetti anche di servizio volontario europeo, ne abbiamo uno a Madrid, uno molto grande che farà partire ragazzi per l'Africa e per l'America Latina, Colombia, Ecuador, Congo, e diversi campi di lavoro in Islanda attivi sempre in questo momento. Tutti i progetti che comunque potete, gli utenti insomma, possono trovare sul sito di Scambi Europei cercando, ecco, le parole chiavi o nelle categorie preposte. Scambieuropei.com è l'indirizzo, lo trovate già sulle nostre pagine in Facebook e su Twitter. Ciao Stefano, grazie, buona Europa. Grazie a voi, buona giornata. Tutto questo succederà il 2-3 aprile, sono i nostri Europost-it, vi segnaliamo cose che accadono in giro per l'Europa, l'Europa dei giovani, dei progetti, risultati, in una giornata dove vogliamo parlare di questa primavera, non potevamo non citare questa edizione di Trans Europa Express, appunto un incontro tra tantissime teste pensanti, teste giovani, iniziative belle, iniziative replicabili. Credo che sia questa la caratteristica comune di tutti questi progetti animati da giovani idee. Abbiamo citato nell'Europost-it una vecchia conoscenza, perché un po' l'abbiamo scoperta noi qui all'Altra Europa, con la sua My Bank, questa banca dei giovani italo-londinese, e Lili La Penna, anche lei parlerà di My Bank, parlerà del suo progetto, e Lili è qua con noi. Ciao Lili. Ciao, come stai? Noi molto bene, e tu? Bene, benissimo. Sei già in Italia o sei ancora a Londra? Ancora a Londra, in ufficio con un gruppo di giovani. Oggi stiamo facendo dei film su Money Tips, esempi su come usare i propri soldi, quindi sono ancora a Londra, ma domani vengo in Italia. Ecco, verrai a raccontare il tuo progetto, e ce lo vuoi sintetizzare nuovamente, e magari se c'è qualche novità, se c'è qualche nuova prospettiva rispetto a quello che ci avevi raccontato qualche mese fa? Certo, quindi My Bank è un progetto che lavora con i giovani dagli 11 ai 25 anni, soprattutto in Inghilterra, ma ci stiamo espandendo in altri paesi intorno al mondo, e noi lavoriamo su due programmi di formazione, quella finanziaria e quella imprenditoriale. Diamo ai giovani l'opportunità di gestire le loro proprie banche, aprendole verso i loro coetanei, aiutandoli quindi a risparmiare, ma anche ad avere accesso a dei piccoli prestiti che possono usare per mettere su il loro piccolo primo business. E quindi insomma, numeri anche significativi, perché ci avevi raccontato che sono ormai quanti progetti finanziati, soprattutto nelle scuole, da My Bank? Sì, noi lavoriamo in tutto, con tutti i programmi di formazione che facciamo, che sono anche formazione finanziaria imprenditoriale fatta nelle scuole, nelle prigioni, nei gruppi di organizzazioni giovanili. Abbiamo raggiunto 38.000 giovani fino ad oggi, e abbiamo fatto più o meno 7.000 prestiti, e poi lavoriamo anche con giovani in altre parti dell'Inghilterra presso un modello di franchising che abbiamo messo su nell'ultimo anno. La bella notizia è che cominciamo un progetto anche in Italia, a Rimini, con un gruppo di un consorzio di banche sia etiche che cooperative, e delle associazioni non governative come la Caritas e delle cooperative locali. Quindi cominceremo il primo progetto in Italia a Rimini quest'estate, e io sono felicissima, perché essendo italiana non vedevo l'ora di portare questo progetto in Italia. Sì, credo sia una doppia soddisfazione, una quella un po' patriottica, e due, insomma, dicevamo prima, un modello replicabile. Questa è un esempio tangibile che quando un'idea è bella può essere anche appunto esportata. Lili, è il mondo dei grandi, chiamiamolo così in maniera semplicistica, con che occhio vi sta guardando, insomma, questa strana e giovane banca? Sono dubbiosi, sono sospettosi, non capiscono, o c'è voglia di capire, di contaminarsi? No, c'è soprattutto molto entusiasmo, c'è molta voglia di capire, c'è voglia di coinvolgersi all'interno di questa e molte altre iniziative che stanno cominciando intorno ai giovani e il rapporto che i giovani hanno con il denaro, il rapporto che i giovani hanno con il loro futuro, quindi lo sviluppo di una mentalità più imprenditoriale, perché ce n'è bisogno. Il fatto che dobbiamo andare a creare 600 milioni di posizioni nuove di lavoro per sostenere il mercato del lavoro, penso che tutti vedano questo tipo di progetto con un senso di ottimismo e di interesse. Sicuramente all'inizio c'erano delle persone che erano un po' scettiche, però poi con 5 anni di esperienza alle spalle riusciamo anche a dimostrare l'impatto positivo del lavoro che facciamo. Certo. Lili, come sempre, grazie. Io ti rinnovo l'invito. Non siamo riusciti ad organizzarci in questa occasione, ma in una tua prossima visita italiana, magari a ridosso anche dell'esperienza che partirà a Rimini, ti aspettiamo qua in puntata con noi per approfondire ancora meglio il tuo progetto, va bene? Con molto piacere, grazie. Grazie a te, ciao, buon lavoro. Ciao, ciao, buon lavoro. Un Europost-it e la pubblicità, poi ancora qua con l'Altra Europa. Europost-it. L'Europa premia i giovani giornalisti. La rappresentanza in Italia della Commissione europea, in collaborazione con l'Associazione Giornalisti Scuola di Perugia e con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, dà ai giovani iscritti alle scuole di giornalismo italiane l'opportunità di vincere un premio. L'obiettivo è quello di aumentare la copertura giornalistica dei temi europei e stimolare un maggiore coinvolgimento della cittadinanza. Potranno partecipare al concorso articoli di massimo 10.000 battute o servizi in italiano tra i 50 secondi e i 3 minuti di durata che abbiano come tema l'impatto dell'Unione Europea sulla vita dei cittadini. Altra condizione, che questi siano stati diffusi tra il 1 maggio 2011 e il 2 aprile 2012 da una testata o da una emittente radiotelevisiva italiana. C'è tempo fino al 2 aprile per iscriversi. Per maggiori informazioni visitate il sito ec.europa.eu/Italia. L'altra Europa. Eccoci qua ancora con l'altra Europa, storie, persone e personaggi per raccontare la cultura europea, tutto ciò insomma che porta anche contaminazione tra le varie nazioni. Radio 24 segue ovviamente la quotidianità politica e economica dell'Unione Europea. Noi cerchiamo il sabato di trovare anche altre sfumature, raccontarvi anche esperienze concrete. Il concetto di replicabilità mi piace molto, perché la mobilità non è solo fatta di viaggi, di spostamenti, ma è fatta anche di idee che viaggiano. Abbiamo parlato molte volte di traduzione, di lingue, perché insomma la conoscenza delle lingue è elemento portante per una nuova cultura europea. E qualche settimana fa abbiamo proprio approfondito tutte le attività dell'ufficio della direzione generale traduzione, no? Questo ufficio che in primis si occupa di tradurre migliaia e migliaia e migliaia di documenti in tutte le lingue dell'Unione ogni giorno, ma anche promuovono tantissime attività per sensibilizzare, per promuovere la conoscenza delle lingue. Tra queste attività c'è un concorso molto bello, molto importante, si chiama Juvenes Translatores, giovani traduttori, e c'è un italiano che ha vinto in Italia, ma non solo, è appena stato anche a Bruxelles per ricevere questo importante riconoscimento. Lui frequenta, uno studente del liceo classico europeo annesso al convitto nazionale Umberto I di Torino. Diamo il benvenuto a Francesco Mosetto. Ciao Francesco. Ciao. Complimenti. Grazie. Allora, raccontaci un po' come funziona questo concorso, perché una gara di traduzione credo che non sia appunto Sì, effettivamente me lo chiedevo usuale. Anch'io prima di cominciare. Allora, vengono selezionate delle scuole, tra tutte quelle che chiedono di partecipare, in base a non so quali requisiti, insomma, vengono scelte dalla Commissione europea, penso per quanto è importante l'Europa nei programmi che svolgono. Sì. E poi in Italia penso che siano attorno alle 350. Ogni scuola presenta 4 candidati più una riserva, che hanno 2 ore per tradurre un testo inviatoci dalla Direzione Generale per la Traduzione da una delle 23 lingue che si parlano in Europa, solitamente nella propria lingua madre, perché è più naturale. Certo. Ed è un testo giornalistico? No, allora, quest'anno, ogni anno il testo ha come tema il tema dell'anno europeo, quindi per quello che ho tradotto io è stato il volontariato e la cittadinanza attiva. Sì. E l'anno prossimo, quindi per il 2012, penso che sia l'invecchiamento attivo. Mm-hmm. E quindi c'è stato questo concorso a livello nazionale, poi vi siete trovati proprio a Bruxelles qualche giorno fa, il vincitore di ogni nazione. Com'è stata l'esperienza? È stato bellissimo, insomma, puoi immaginare sentire parlare tantissime lingue diverse contemporaneamente, poi si ha la sensazione di essere tutti insieme, no? Con cittadini, quasi fossimo tutti dello stesso paese. Mm-hmm. Credo che tu sia stato scelto anche per fare un breve discorso nella cerimonia, sì, vero? Sì, è così. Sono stati scelti 4 tra i vincitori, cioè Cipro, sì. Poi l'Italia, la Gran Bretagna e la Romania. Mm-hmm. E cosa hai detto? Di cosa hai parlato? Ho parlato di traduzione, perché per me è la cosa più importante. Cioè, si fanno tanti concorsi, tante gare sulle lingue, ma la traduzione si fa poco. E allora ho spiegato perché secondo me è importante, cioè se vogliamo capirci in Europa bisogna tradurre, perché non possiamo pensare di parlare tutti la stessa lingua, perderemo un pezzo di noi stessi, delle nostre identità. E allora serve qualcuno che passi le cose da una lingua all'altra per conoscerci meglio. E cioè, poi ho usato una metafora che penso sia piaciuta molto, a me sembra una cosa molto semplice, cioè la traduzione è un po' come un trasloco in cui si cerca di creare le stesse stanze di una vecchia casa in una casa nuova che però ha degli spazi diversi. Sì, e ovviamente sì. Meno uno si accorge di aver cambiato casa e più è riuscita la traduzione. Da assolutamente idea. Stefano, complimenti. Francesco, scusa, complimenti. E ti faccio anche un invito, perché noi sicuramente a maggio saremo in diretta dalla Fiera del Libro a Torino. E quindi tu sei di Torino, magari... Sarò lì per un altro progetto, quindi ci vedremo sicuramente. Ottimo, ottimo. Così insomma andiamo a diffondere questa idea, no? Che appunto attraverso la conoscenza della lingua passa la conoscenza delle persone ed è il migliore degli incontri. Ciao Francesco, ciao, buon anno scolastico. Ciao, ciao. Grazie, ciao. Este es un informativo especial dedicado íntegramente a la huelga y a esta hora una marcha multitudinaria recorre el centro de Madrid. La cabecera apenas puede avanzar porque el recorrido está lleno de gente. Una manifestación que ha comenzado en la Plaza de Neptuno, encabezada por los líderes sindicales que tienen previsto hablar cuando acabe el recorrido en la madrileña Puerta del Sol. ¡Esta reforma! ¡Vamos a parar! Gritando al unísono contra la reforma laboral. ¡Contra la reforma! ¡Huelga general! Questa è la Spagna che un paio di giorni fa si è fermata, fortissime proteste anche in forma violenta per dire no alla riforma del lavoro che rende più facile i licenziamenti, una situazione non uguale ma simile a quello che sta accadendo anche in Italia. Una fiammata è stato solo un evento occasionale o appunto quella che è la protesta spagnola ancora una volta potrebbe riaccendere una protesta a livello europeo? Per capire e fotografare la situazione abbiamo invitato una voce amica dell'altra Europa, lui è Jorge Maria Rodriga, caporedattore della redazione internazionale del Paese. Ciao Jorge. Buongiorno Federico. Buongiorno a te, grazie come sempre per aver accettato il nostro invito. Abbiamo letto, abbiamo visto le immagini di una situazione assolutamente incandescente, ma soprattutto un malessere generale e mi sembra stratificato anche, nel senso che cioè tutte le classi sociali sono coinvolte. Cosa sta accadendo e qual è il clima ora? Il clima diciamo che non è certamente di gioia, perché il giorno dopo dello sciopero generale il governo ha approvato ancora una serie di tagli e di misure che soprattutto puniscono le classi medie. Ti dico, la benzina è salita, il prezzo della benzina è salito, del tabacco, l'elettricità, il gas, diciamo tutto quello che colpisce di più alla gente che ancora ce l'ha un lavoro, quindi proprio per questo lo sciopero non è stato un successo come 20 anni prima, perché l'Spagna non è più un paese industriale, un paese più di servizi, ma è il riflesso di un malessere di tutta la società spagnola che percepisce che questa recuperazione è stata messa sulle spalle soltanto di un gruppo di spagnoli, non di tutti. Mm-hmm. Ecco, ma il governo come spiega queste riforme? Nel senso, le spiega come appunto necessarie, essenziali, determinanti? Cioè, c'è una sorta di coinvolgimento con la popolazione o c'è una sorta di distacco? No, il governo diciamo che sta dice lo stesso che dice il governo italiano, quello greco, quello portoghese e quello di Irlanda, che non si può fare nient'altro e che le cose sono così, che il rischio di non fare queste riforme è ancora peggiore delle sofferenze che possono essere adesso. Certamente il governo spagnolo, non dobbiamo dimenticare che ha stravinto le elezioni pochi mesi fa, in questo senso si sente legittimato per fare queste riforme, ma è vero che è legittimato dalle votazioni, ma ogni volta che una persona che lavora vede come tutti i prezzi salgono e che ogni mese arriva a fine mese in maniera più precaria, le cose diventano più difficili. Certo. Cosa accadrà ora? Ora i sindacati non hanno vinto lo sciopero, devo dire. Possiamo vedere l'immagine, quelle grandissime cortei a Madrid, ma a Barcellona non tanto, perché diciamo che la violenza di Barcellona non ha niente da fare con i sindacati e il governo lo ha riconosciuto. Barcellona c'è un altro problema più legato ai Black Bloc e ai gruppi antisistema. Ma i sindacati, anche se hanno reso conto che hanno chiuso le fabbriche, ma non hanno chiuso i negozi, quindi quello che hanno chiesto al governo è di ripensare, e hanno minacciato con nuove misure, nuove proteste. Ma un fatto che a me ha colpito abbastanza del discorso dei sindacati il giorno dello sciopero è che non si indirizzavano verso il presidente del governo spagnolo, cioè Rajoy. Il leader dei sindacati spagnoli, che si chiama Cándido Méndez, che sarebbe la Camuso della Spagna, sì. Méndez si indirizzava alla cancelliere Angela Merkel e le diceva: signora Merkel, queste riforme non hanno appoggio della società spagnola. Mm-hmm. E quindi insomma è significativo, è certo. Significativo, vero, di come anche appunto certe decisioni difficilmente vengono metabolizzate, si vuol capire o non si vuol capire, anche lì insomma poi ci sono diverse strategie, però anche l'assonanza davvero è netta con quello che accade in Grecia, con quello che si legge anche qui in Italia. Tu poi che ti occupi appunto della redazione internazionale, credo che vada proprio a trovare tutti questi punti comuni. Jorge, grazie davvero come sempre per averci fotografato la situazione. Ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa. Ciao, grazie. Grazie, ciao a voi, Federico. Ciao. Grazie. Radio Estensioni, loro sono i Subsonica e loro hanno avuto la possibilità di vivere, conoscere, scoprire, respirare l'Europa con questo istantaneo tour dal Canton Ticino, passando per Berlino, Bruxelles, Londra, Parigi, ieri sera Barcellona, questa sera Madrid, e lo abbiamo svegliato presto, perché comunque quest'ora è presto per uno che ha fatto un concerto ieri sera. Diamo il benvenuto a Max Casacci dei Subsonica. Ciao Max. Buongiorno, saluti da Barcellona. Grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Come è andata ieri sera? Abbiamo appena parlato di questa Spagna incandescente dal punto di vista delle tensioni sociali. Tu dal palco che Spagna hai respirato? Io a partire da quando siamo atterrati con l'aereo l'altro ieri si vedeva proprio una sorta di cappa che attribuivamo allo smog, ma in realtà era probabilmente la fine della giornata degli scontri con tutti i fumi dei cassonetti eccetera eccetera. Siamo entrati proprio in una Barcellona con un'atmosfera molto molto tesa. Mm-hmm. Ieri sera molti dei ragazzi sotto il palco erano ragazzi che avevano partecipato alle manifestazioni, esattamente come abbiamo avuto modo di incontrare alcuni di loro durante un incontro con associazioni italiane. Sì. Nel pomeriggio. Abbiamo trovato una Spagna che è esattamente quella che si vede sui telegiornali, almeno dal punto di vista giovanile. Ragazzi molto preoccupati, una disoccupazione al 20% che chiaramente proporzionalmente aumenta se si parla di ragazzi. Certo, e credo che insomma sia stato un bel viaggio in Europa, nel senso che per voi è stata avete portato la vostra musica e la musica è il modo migliore per viaggiare e per far viaggiare, però questa scelta di andare a vederla l'Europa dal di dentro, cosa vi ha spinto al di là del portare la vostra musica? Vabbè, naturalmente c'è un piacere immenso, una soddisfazione di una sfida che è molto diversa da quella dei palchi italiani, innanzitutto perché i palchi italiani sono diventati molto grandi, le proporzioni sono molto più di larga scala, mentre in Europa ci possiamo permettere i club, non piccolissimi perché sono club da almeno 1000 persone, però insomma ritrovare un po' quell'atmosfera da locale un po' più raccolto innanzitutto è un bel ritorno. E poi confrontarsi con un pubblico che ti conosce, non ti conosce, alcuni sono ragazzi del posto che vengono per la prima volta, altri sono italiani che magari avevano seguito i primi passi dei Subsonica, ma che da anni vivono altrove. Quindi è una bellissima sfida, molto stimolante. E vi siete portati a casa tante istantanee da questa Europa? Ma noi tra l'altro abbiamo avuto una terapia d'urto praticamente, perché un giorno dopo l'altro facciamo città completamente diverse e realtà completamente diverse. Le istantanee che ci portiamo dietro sono le belle chiacchiere con i ragazzi, molto spesso c'è parecchio pubblico straniero, però la componente 60-70% a volte è pubblico è composto da italiani in fuga, cervelli o non cervelli, comunque ragazzi che vivono altrove, e parlare con loro è molto stimolante. E, tra l'altro è un pubblico che ha delle necessità culturali diverse forse rispetto a quelle dei loro coetanei in Italia. Sono molto più immersi in un'atmosfera internazionale, sono molto più esigenti, quindi per certi versi siamo molto gratificati di averli come pubblico affezionato. Certo, parliamo tanto noi di Europa Unita, hai trovato un filo conduttore tra tutte queste città o tra tutti questi ragazzi che hai incontrato? Il filo conduttore è relativo al lavoro, la cosa che si sente dire da tutti loro fondamentalmente, indipendentemente dal lavoro che fanno, non importa se dove lavorano devono affrontare fatica straordinaria, lo fanno con molto piacere, l'unica cosa è che all'estero vengono valorizzati per quello che sono e non devono chiedere grazie solo per il fatto di avere un posto di lavoro. Condizione di un po' ricattatoria non espressa che però c'è in Italia, insomma se tu riesci a trovare un lavoro, chi te lo concede sembra che ti stia facendo una concessione, perché altrimenti andresti a rimpolpare la lista di quelli che lavoro non ce l'hanno. Ecco, questo tipo di atteggiamento in Europa non c'è, si fa un lavoro, si viene valorizzati per quello che si fa, e questo è proprio il commento che attraversa tutti gli incontri che abbiamo avuto in questi giorni. E ad ogni città avete di fatto dedicato una canzone: Londra, il diluvio, Bruxelles, strade, Parigi, Istrice, Barcellona, onde quadre. Per Madrid questa sera chiudete il tour, l'ultima tappa, giusto? Stasera sì, stasera, domani torneremo a casa. E avete scelto appunto istantanee, perché? È l'idea di chiusura o appunto Madrid vi dà l'idea di una città così da cogliere al volo quasi? Ma non conosciamo così bene tutte le città in cui andremo a suonare, diciamo che insomma, chiudere con l'ultima data questa collezione di istantanee simbolicamente ci sembra una bella cosa. Ok, siete pronti? Come ci si sveglia una mattina dopo un concerto a Barcellona e si sa che la sera dopo si essere a Madrid? C'è l'abitudine, c'è la consuetudine o c'è anche la voglia di magari dormire un'ora in più? Ma si fa un po' il check delle energie, dei muscoli doloranti per capire quanto sarà impegnativo il concerto. Questa sera in effetti, dopo quattro date praticamente consecutive, bisognerà centellinare l'energia su quel palco, anche perché insomma, il pubblico madrileño è abbastanza esigente. E ieri sera nel Razza Nataz, questo locale vecchio e bellissimo, non funzionava l'aria condizionata, non funzionava la ventilazione, quindi abbiamo sudato veramente noi tanto quanto il pubblico. Grazie davvero a Max Casacci dei Subsonica, l'Europa raccontata anche attraverso l'istantanee tour. Ciao, grazie davvero per aver accettato il nostro invito, buon concerto. Grazie, ciao a tutti. Ciao, ciao. E questo grazie va anche a tutti voi per essere stati in nostra compagnia e anche all'intera squadra dell'Altra Europa, Margherita Ina e Viola Frifa che con me hanno scritto la puntata, Giorgio De Luca in assistenza, Pietro Lacorte alla parte tecnica, adesso il GR, poi il Gastronauta. Come sempre la puntata può essere riascoltata dal nostro sito radio24.it oppure fatevi vivi attraverso i vari media, chiocciola Federico Taddia per Twitter oppure Facebook sulle nostre pagine. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia.